CQ, canale 10. 1, 2, 3, prova. Chi è? Chi è avanti? Ottimo e abbondante, Fra. Immaginavo così tu, questo è Marco che sta mangiando. Come stai, Marco? Sì, al solito, Fra. Senza troppo entusiasmo. Vabbè. Ciao, ma in generale o solo per la frequenza? No, no, in generale, no, la frequenza non c'entra nulla. Dai, un po' più ottimismo, dai. Ho sentito che non c'è nessuno in frequenza, ho fatto una tazzolata, boh. E dai, ci viene, entro a salutare qualche amico, invece non c'era nessuno. Meno male, almeno tu mi hai risposto, dai. Sì, anche se come ho detto sto mangiucchiando qualcosa. Ehi, in questo momento sto usando un President. Così, tanto per la cronaca. No, sta facendo bene. Io sto facendo sempre allo stesso modo, sì. L'altro giorno mi si è collassata l'antenna, praticamente la canna da pesca. Un elemento si è compenetrato dentro un altro, come quando chiudi una canna da pesca, quindi stavo viaggiando un po' più corto. Eia, qua vabbè, segnale 9 più 10, smitter a LED che non fa testo, però ti ascolto stupendamente. Sempre uguale, no, penso che non sia cambiato niente. Ma sono l'antenna collegata direttamente all'apparato, quindi non so neanche... non credo sia stazionare, ma non credo. Con lo strumentino dell'apparato mi dà, neanche si muove l'ago, quindi penso che sia abbastanza affidabile, tra virgolette, dai. Eia. Bene, Fra, sì, oggi non c'è nessuno nel 23, né in PMR, è tutto vuoto oggi. E vabbè, dai, la gente d'altronde c'ha anche altre cose da fare, altro che baracchino. Ciao, ciao, ciao, ben sentito, dai. Ha salutato una persona dall'alto, dal frequenza alta, dai. Ho sentito qualcosa, ma non ho capito chi fosse, dai. Io saluta Franco qua, dai. Sarei controllo. No, Claudio ha salutato in un'altra banda. È impegnato, è indaffarato, sta facendo roba. Quindi ho indovinato, ho detto torre di controllo perché qualcuno lo chiama così. Sì, sì, sì, esatto. Va, me ne ero anche dimenticato, torre di controllo, è vero. Ricambio i saluti. Più che, ma si può dire che frequenza è, sì. Va bene, forse non si può dire. Vabbè, il canale 7 PMR ha salutato lì, può darsi che si stia muovendo col portatile all'interno della casa anche, capito? Che non sia proprio in stazione. Per prova a cedere, non so se lo prendo. Però non c'è QSO, non c'è un QSO fisso. Ha salutato come ha detto che non c'era un'anima da nessuna parte, ha salutato, dai. Ricambiati i saluti, dai. Tu sei Fra. Sì, modulazione bassina. No, era bassina il volume mio. Rettifico, era bassina il volume mio. Già arrivi. Ormai credo che ce ne sia uno in ogni abitazione. Anche chi non è CB, credo che ce l'abbia. Sì, sì. Può essere che non ha tolto anche la concessione. È vero, sì. Sì, sì, sì. Niente più DIA, dichiarazione inizio attività, niente più 12 euro da pagare. Naturalmente il sito di Cagliari, cioè della regione Sardegna, non è stato aggiornato, perché la Toscana l'ha aggiornato specificando che non devi più fare nulla, libero uso, e anche di altre regioni, però in Sardegna non hanno aggiornato il sito. Comunque, vabbè, non è che quelli si devono adeguare, boh, non è che possono decidere, no, in Sardegna non ci piace, in Sardegna facciamo pagare, non è così, non credo almeno. Non lo so, non ci metterei la mano sul fuoco, visto che siamo una regione particolare. A statuto speciale, ma ho detto anch'io, però lì è roba comunque che arriva da Roma, ordine dall'alto. Sì, sta suonando il telefono, ma non ho voglia di alzarmi, è importante già richiamo, tanto non è roba familiare perché la suoneria ce l'ho personalizzata, quindi quando chiamo mio padre già me ne accorgo. Ah, ecco, una cosa che non ho mai usato, sì, per la famiglia potevo mettere una suoneria particolare. Cioè, personalizzarla, sì, è vero, ma tutte menate che io non uso mai sui telefoni, sugli smartphone, soprattutto, tante opzioni che non si usano. Lo faccio perché siccome ti bombardano le telefonate pubblicitarie più che altro, e quindi tanto fanno quei 3-4 squilli e poi chiudono, sono tutti call center oppure roba computerizzata, chiamate computerizzate o più, che fa campione. Più oggi è proprio cadono queste chiamate, quindi preferisco alzarmi solo quando so chi è che mi sta chiamando, là, tipo i miei genitori, che sono uno dei pochi che ancora hanno il telefono fisso. Pure io, ancora abbiamo il telefono fisso, addirittura sono due linee, una è quella col numero storico e poi quel numero tiscalistrano, mai usato, proprio telefono fisso, nemmeno cordless. Sì, anch'io ero così prima, avevo due linee, adesso sono sempre tiscali con la fibra, 1000 mega, però credo che sia solo una linea adesso, non ho provato, la verità. Addirittura con Tiscali mi avevano messo come numero principale sulla guida telefonica, quello Tiscali che non ce l'aveva nessuno, non era neanche collegato, era collegato alla linea 1, quindi è un casino. Comunque, almeno rotture di scarpe l'avevo. Ma ne hai mangiato uno solo? Uno ce n'era, aspetta, eccomi, stavo parlando con mamma. Sei a fra. Poi non sto uscendo granché, non ne ho voglia proprio, fisicamente sono un po' a terra, vabbè, mi sta diventando cronica, quindi me la prendo con filosofia, è la mia croce, dai. Ma ti farebbe meglio il contrario, ma riuscire, fare qualcosa, un impegno. Io stasera, non so, mio padre ha fatto un casino ieri, sta iniziando a perdere colpi di memoria, quindi guarda, ha distrutto il cancello elettrico e poi dopo che l'ha distrutto mi ha chiamato, guarda, gli ho fatto danno. E cosa hai fatto? Ne aveva smontato tutto, bracci, staccato fili, quindi non sapevo da che parte entrare perché non è uno schema. Allora mi sono messo lì su internet a cercare qualcosa, un po' dall'altro braccio che ancora non aveva smontato, vandalizzato, e sono riuscito a trovare almeno i collegamenti del braccio del cancello elettrico. Poi piano piano ho ricollegato la centralina, prima funzionava solo con la chiave, e poi alla fine ho trovato anche il codice per i telecomandi, ho ricodificato tutto, meno male ha ripreso a funzionare alla grande, dai, quindi ci hanno risparmiato un po' di soldi, perché quella roba poi non trovi più pezzi, è un came di 30 anni fa, figurati i bracci, funziona a 220 ancora, il lampeggiante a 220, cose che oggi non fanno più, ormai tutto a 24, a 12. Eia, addirittura il lampeggiante a 220, aspetta, sì, tutto LED alta potenza adesso anche, non so nemmeno se usino più lampadine, useranno LED alta potenza. E consumano ancora meno delle lampadine incandescenza a 12. Sì, sì, sicuramente. E durano anche di più. Caldano meno, non credo. No, qua è tutto a 220. L'impegnatore l'avevo già cambiato, meno male me l'aveva procurato un amico che faceva questi lavori qua ogni tanto, quindi non butta mai niente, anche lui conserva tutto e me l'aveva procurato. Questa volta pensavo fosse partita la scheda di quale in trasmissione. Invece non aveva nulla, l'ho smontato, l'ho pulito, l'ho ripiazzata, figurati, per codificare i telecomandi, non ha neanche switching, è a ponticelli, praticamente tu facendo dei cordi dei ponti con queste pinzette, morsettine, crei un cambio di frequenza, praticamente è quartata la scheda, è a quarto, figurati, oggi non è più così. Aspetta, come hai detto che è il cambio di frequenza? Microinterruttori? No, non è a switching a microinterruttori. Deve fare ponticelli con delle chiavette che hanno due fori. Praticamente metti in corto, in collegamento, varie combinazioni di terminali e ti cambia la frequenza. La stessa codifica la metti sui telecomandi e funzionano, si accoppiano, capito? Ah, un jumper praticamente, sì, un jumper, se lo sposti, come le modifiche del 3009 per i canali, c'è questo cappuccetto, no, che conduce, lo porti da pin, che ne so, dall'1 al 2 al 2 al 3 e diventa 240 canali. Bravissima, hai capito la perfezione. E così è sono riuscito a recuperare tutto. Fino alle 5, dalle 3 che sono sceso fino alle 5, un paio d'ore lì sotto il sole, poi non ti dico. Però alla fine sono soddisfatto, sono riuscito a recuperare il cancello. Purtroppo stanno diventando anziani e qualche colpo di memoria lui lo sta perdendo. E ha detto non toccare nulla, qualsiasi cosa, chiamami, ma pensavo che stessi lavorando, non c'è problema, io ti dico, lascia stare, chiamo un tecnico, piuttosto che fare danno. Meno male che tutti i pezzi che ha smontato gli amici del Prosecchio e sono riusciti a recuperare tutto. Ma dovete vedere come ha fatto quel braccio, l'ha fatto in 1000 pezzi. E poi il danno non era lì, il problema era nella centralina, era nella centrale. Ehi, ehi, c'è qualcun altro sul 10, qualche anima pia che vuole entrare, dai. Dai che è gratis, dai. È vero, adesso è pure gratis. Beh, per quanto il 2020 è pagato, e fino al 31 dicembre è pagato. Eh sì, secondo sì. Purtroppo chi ha pagato in anticipo è rimane fottuto. Cioè, vabbè, noi magari abbiamo pagato a gennaio, non come tutti gli anni, ma pensa che uno magari il giorno prima voleva farci la concessione e tutto, ha pagato il bollettino, e il giorno dopo esce questo decreto del 17 o del 16 luglio e dice da domani, perché entrava poi a brevissimo mi pare in coso, e quindi vabbè 12 euro capirai, tutti i soldi ho bruciato io, altro che 12 euro in baracchini, in robaccia. È così, vabbè, comunque cominci tu già hai poca roba, 12 euro. No, io vabbè, apparati, più che quel valvolare che ho preso, vabbè, l'ho pagato 20 euro mi sembra, di dato il ragazzo, ce la stava buttando insieme lo stava svendendo insieme a aspirapolvere e cose varie. Mi dava fastidio vedere così e l'ho riesumato. Ehi, ahi, aspetta che... Quattro dita dal mic, sono ancora udibile? Sì, sì, io adesso sono a 40 centimetri. Eia, questo è un mic normale, il mic normale originale, al condensatore, quindi roba da mensa, però mi hanno detto che bene o male come qualità dovrebbe essere tipo il 3009, dai. No, niente da dire, sono proprio quelle modulazioni chiare, senza fronzoli, normalissime, ma veramente comprensibilissime. Io sempre, poi mic normali, porca miseria, c'è quell'MB più 5 e se ne sta ridendo, bisogna che lo svenda o lo regali a qualcuno, è usato poco e niente. E non mi ci trovo con quelli da tavolo, anche perché io non ho spazio da sacrificare, non voglio sacrificare spazio per mettere microfoni da tavolo. Io poggiavo qua sul bracciolo del divano, no, l'MB più 5, ma bastava una gomitata, un passo falso, un giorno è caduto, per fortuna giù c'era roba morbida e non ha preso colpi, dai. Come attacco va bene a questi qua, quelli che al Galaxy? Hai chiesto se va bene al Galaxy quale, l'MB più 5? Questo è a 4 poli, dai. Sì, se trovi la giusta impostazione di tono, poi il mio è vergine, il mio è uscito dal negozio, non ha ponticellature, non ha modifiche, così come esce dal fabbricante l'ho lasciato, anche perché ho provato su apparecchi che già escono bene loro, metti il volume a 10, già ti fa sordo, è inutile spingerlo ancora di più, vabbè, per me non ha senso. Ma se capita lo proviamo su questi apparati a vedere come esce, quindi lo ascolti tu magari. Teia, dunque Galaxy dovresti avere la stessa piedinatura del 3009, lo sai. Le tabelle avevo scaricate, adesso vale a trovare. Ma... Beh, se non sbaglio si assomiglia anche tecnicamente, giusto? O sbaglio? Adesso non ce l'ho presente. Aspetta, dimmi quale apparato a quale apparato. Aspetta, al 3009. Io quello con frequentine. Senti, ci vuoi doppio, c'è. Ah sì, il ripetitore in VHF 6625 e manda credo l'identificativo del ponte, dai, la zona forse anche. E adesso l'ho spento, tanto non c'è nessuno. Adesso non ricordo male come sia il 3009, cioè non ricordo bene anche. Aspetta, ricordami, Fra, tu che Galaxy hai? Il modello? Il Super Galaxy, praticamente è come il Samurai, ti ricordi il Samurai? Sì, sì, sì, è molto simile. Sì, praticamente la stessa minestra. Guarda, l'apparecchio del Profeta è identico al Samurai, identico, solo che è ulteriormente aggiornato, era del 2015 mi pare, molto recente, è uscito di produzione da poco, cifre verdi, e anch'io ho avuto il Samurai tanti anni fa, identico, identico, che da chi l'avevo preso, vatelo a ricordare, va bene. No, questa è tutta un'altra filosofia, questo è anche brutto se vogliamo rispetto ai 3000, niente cromature, poi tutto menu, infatti non mi ricordo come si accede al menu nemmeno, hai solo pochissimi tasti, pochissime manopole, proprio tipo 3 manopole, 4 tasti, i tasti hanno funzione tripla, solo che poi ti devi ricordare tutte le prassi per fare le funzioni, capito? Tutte poi le menate inutili, ecco, autoascolto, chi più ne ha più ne metta, display che cambia colore, le solite fesserie, mi. Non è roba per me, che io memoria ne ho pochissima. Ogni volta devo memorizzare qualche canale nel portatilino, mi devo prendere il manuale, ogni volta non mi ricordo più da una volta all'altra. Sì, anche perché soprattutto le programmazioni le fai una volta e poi non le tocchi per anni. Programmazioni, le prime impostazioni, no, le fai una volta, poi non le usi più, non le tocchi più per secoli. Eia, vediamo un po', io in teoria dovrei essere a 4 watt, in teoria, vediamo se riesco, eccolo qua, guarda come lievita, e poi confermo, eccolo qua, adesso dovrebbe essere circa 8 watt. Dimmi se la modulazione ha perso aumentando la potenza. No, diminuito il fruscio, come è aumentato di potenza il segnale, di conseguenza schiaccia di più il QRM, però la radio è sempre buona, il segnale è aumentato, però si vede. Sì, poi mezzo Santiago, cioè da 4 a 8 raddoppi, mezzo Santiago. Alla fine scalda il finale inutilmente, non è nessun vantaggio, gira gira lo vento. No, era per capire se la radio perdeva, ma se non perde, buono. No, rifai la prova, parlando stesso. Parlando? Ok, in un unico passaggio allora. Allora, premo qui, mi compare RF Power, adesso è tutto a manetta, vado calando rapidamente, confermo, e non ha confermato nulla, ho sbagliato mano. No, sei sceso e poi sei risalito. E questo l'ho fatto anche mentre premi la portante. Allora, manetta. Ecco qua, minimo, in un unico passaggio. Ha variato la modulazione? Ma forse leggermente aumenta la forza della radio, forse è più squillante, però sono cose fesserie, proprio a livello impercettibile. Sembrerebbe appena leggermente più forte quando abbassi, ma pochissima cosa. Sì, ma lo fa, un po' lo fa. Scaldano sempre troppo però questi apparecchietti SMD. Il 3009 non scalda così, puoi stare a tarsela a parlare, si scalda, ma questi ci puoi cuocere quasi le uova sopra, vabbè che ero a 4 watt, no, però è già bello tostighe, come si dice? Ma non tostighe, caldo, come si dice? Ciao Sarese. Caldo, come si dice? Caldo, ehi, qualcosa del genere, dai. Bene. Io ho ripreso a lavorare, quindi ho fatto una settimana scorsa, ero a Ghiero tutta la settimana di sera, quindi dalla 1 che partivo da qua rientravo alle 10:30 di notte. Infatti un po' pesante, dai. Anche se a volte tipo domenica mattina sono andato al mare, poi ho visto che c'è un punto d'appoggio là dall'Alghero, lo sfruttavo, la mattina mi andavo al mare e la sera lavoravo. Eia, io ho tolto tutto dalla macchina, ombrelloni, sediette, tutta quella cosa che, quelle cose che potevo tenere dietro nel cofano le ho tolte. Mi sono già stufato del mare, troppo caldo, non è per me. E invece adesso è il periodo migliore, domenica Alghero c'era pochissima gente, poca gente per questa una. Ieri sera eravamo qui al terzo pettine, a ridosso di quel locale che hanno fatto, non so, un bar, cos'è, forse anche un ristorante, un bar ristorante, che c'è proprio sulla spiaggia. C'era un po' di vento che veniva da est, dai, diciamo, e mi sono messo a ridosso, si stava benissimo, un paio d'ore, giusto dalle 5, no, anzi dalle 4 alle 6, così, più o meno. Sì, comunque hai ragione, adesso se, finché il tempo tiene, è il periodo migliore, perché gente ce n'è meno, il periodo migliore è sempre all'inizio dell'estate, cioè primavera inoltrata, quando ancora non c'è il boom di turisti e delle persone, oppure a settembre, tempo permettendo. Meno gente, trovi più posto auto per parcheggiare, eccetera. E così è. Vabbè, per quest'anno lo zaino ben poco l'ho usato, adesso disfo tutto e metto sotto chiave. Invece questa settimana ha messo molta pressione, quindi si potrebbe andare tutta la settimana. Ecco degli impegni, questi giorni, tra giovedì e venerdì, un po' con la banca, che è un paio di assegni che non riesco a incassare, mezzo incasinati, e mi stanno rimbalzando da una parte all'altra, mi sto rompendo anche le scatole. E così, e poi venerdì un altro appuntamento, ma penso di svegarmi subito, verso le 3:30 dovrei aver già finito, quindi sì, potrei andare anche venerdì al mare, vediamo un po'. Sì, spesso gli assegni, se praticamente lo vai a ritirare dove non è il conto, ti invitano a fare il conto oppure non te lo fanno ritirare, non te lo fanno incassare, cioè, già hai capito. Ma ogni banca tira l'acqua al suo mulino, alla fine solo quelli ne godono, di tutte le crisi, dei momenti sia buoni sia cattivi, le banche sempre ne godono, per carità. E quando anche le banche annaspano, che io non ci credo per niente, fanno iniezioni di liquidità alle banche, tipo mille miliardi, proprio da stampati, i soldi stampati e dati alle banche, cioè a chi non ne ha bisogno. Il cormo, va. Sì, fanno così. Come dici tu, loro ci provano a farti aprire un conto, ti fanno sudare con l'assegno, non te lo fanno incassare subito. Perché da poco, non so se te ne ho parlato, ho venduto la macchina, quell'assegno ho partito le penne all'interno per incassarlo. E porca miseria, ho detto, non si può così. E poi vabbè, io assegni ben pochi ne ho visto. Rotture di scatole. E vogliono sapere ogni cosa che spendi adesso, vedrai quello che faranno in futuro. Qualcuno ipotizzava di eliminare il contante, proprio vogliono sapere ogni centesimo che tu hai, in modo da tassarti, eccetera. Vabbè, non dico di fare l'evasore, ma Cristo. Sì, ma controllano sempre a noi poveracci, i veri evasori non li controllano. Sì, anche perché gente magari dall'alta finanza, esperta, che sa come far sparire i soldi, come fare passaggi di mano, riciclaggi, farli arrivare in paradisi fiscali, capito? Un poveraccio qualunque che si guadagna la pagnotta non conosce bene l'economia, capito? Invece avevo visto quel programma dove molti anziani in pensione se ne andavano in questi paesi dell'est, dice che c'erano molte meno tasse. Lo descrivevano come un paradiso, ma non so a quale livello. Cioè alla fine gli interessa solo non pagare tasse, tutto lì alla gente. Poi anche in Portogallo, se quelle gente siamo alle Canarie, perché a parte che si compra meglio, si vive meglio, cioè a parità di stipendio la campi meglio, in più sei meno tassato, ma vedrai quando andremo in pensione ci tasseranno anche il fatto che noi andiamo fuori, ci tasseranno alla fonte proprio. A proposito di Canaria, credo Gran Canaria, o se non sto sbagliando io, uno youtuber ha fatto vedere anche post covid, no? Con tutto il terrorismo mediatico che hanno fatto, i ristoranti tutti chiusi, tutto serrato, una cosa spaventosa, c'è interi villaggi vacanze, ti parlo adesso di un mese fa, due mesi fa, cioè post covid, no? Quando ancora la gente, poi non so se sia migliorata la cosa, però questo che ci vive dice che credo che sia pure un sardo, adesso non mi ricordo il nome dello youtuber, dice stanno facendo di tutto per far affondare l'economia e poi, come pensano molti, svendere tutto ai cinesi, capito, che arriveranno con le valigette e il denaro a comprarsi mezza Italia, mezza Europa e chissà che altro. E come già stanno facendo anche qua a Sassari, si vede nel nostro piccolo. Io sì, ho un ex cognato a Malaga, c'è un ristorante, però ho visto che sta iniziando anche lui a lavorare nuovamente, dai. Non so se abbia patito crisi, ma penso come tutti all'inizio sì. Sì, sì, infatti può darsi che si sia risolta la situazione, però chi era già in crisi in tempi di normale lavoro sicuramente è stato crepato di brutto da questa storia, questa chiusura obbligata. Poi in Italia mi pare chi era costretto comunque a chiudere doveva pagare le tasse anche da fermo. È corretta questa cosa, ci sembra una pazzia. Cioè tu paghi le tasse sul lavoro, per quanto stai lavorando, ma se sei due mesi fermo, che tasse devi pagare sull'attività commerciale? Va, pasticci ne fanno ogni governo, mi sembra che ne combina di bene e di buone. Non distingo nessun partito, che mi sembra che siano tutti uguali alla fine. Sì, tutti uguali, non c'è Salvini, Meloni che tenga. Io credo che non andrò più a votare, è una cosa a cui pensavo da tempo. Mi piacerebbe andare anche in sede elettorale e strapparla di davanti. Ve la riconsegno, oppure consegnatela ai vostri padroni, insomma. Basta. Non ha senso, tanto voti una cosa, poi cade il governo ed entrano, come in questo caso, i sinistroidi, i sinistrati, i gialloverdi, i grillini, chi più ne ha più ne metto. Sì, infatti, votare non ha senso. Poi fanno quello che vogliono. K. Dai, che fai tu adesso? Ho un po' di mal di schiena, mi sdraio un po'. Ci bevo un po' di recupero un po' di liquidi perché ho sudato un po'. E mi riposo un po', dai, mi fa piacere sentirti. Riascoltarci alle prossimine. Un abbraccio e a te ancora il mic. Eia, fra, io diciamo finisco di mangiucchiare qualcosa, diciamo era a metà strada, tre quarti, dai. E sentiamo le prossime. Magari quando c'è più gente, a giornate magari entrano più persone, però ci sono anche parecchi giorni che non c'è veramente migragna. Bene, ma già ci sono altre cose da fare, sia in casa che fuori, volendo. Ciao fra, buon riposino di schiena, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ciao fra, ciao ciao. Capa, dai, aspettiamo tempi migliori. Vedrai qualcuno adesso, come cambia il tempo, qualcuno rientra in frequenza, vedrai. Salutoni ancora, ciao. E io, ciao fra, ciao ciao. C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno? Attenzione, canile 5. Canile 5 più 5. Prova, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio.